Doppio, eccoci qualcuno per un controllo. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno. Attenzione su 10. C'è il coronavirus, sono tutti ritirati. Poi Marco, e allora? Sì, ciao. Ciao. Brutto momento. Sì. Speriamo bene, dai, dice che a Napoli hanno trovato questo antinfiammatorio che fa bene. Vabbè, da lì a sperimentare, a finire, fare, produrre, chissà quanto tempo ci vorrà ancora già, boh. Speriamo bene comunque, speriamo bene, cosa ti dico. Ciò che mi auguro io è che tutti i paesi seguano la prassi, perché se no, se uno la segue l'altro no, continua a girare la scuola. Il problema è questo, che come avrai visto già da tempo, ci sono i non credenti e gli sbruffoni che continuano a infischiarsene e continuano a fare gli untori, lo sai com'è? L'ignoranza in certi casi è regina. E tu stai lavorando, sì? No, ma stai scherzando, sono a casa, chiuso già da un paio di giorni, da un po' di giorni, le aziende hanno chiuso e anche le attività commerciali in buona parte sono chiuse, sono rimaste a lavorare all'interno magari per qualche progetto, per qualcosa che hanno da fare o impegni insomma che possono gestire all'interno, ma nessun contatto con l'esterno. Ma come fa? Le aziende hanno tutte chiuse e aspetteranno fine mese a vedere un po' che cosa succede, com'è la situazione, insomma, dai. Come dovrebbe essere così, corretto, come dovevano probabilmente fare anche qua, in Sardegna, chiudere i porti aerei o porti, bloccare, fare per 15-20 giorni, bloccare tutto e impedire anche trasferimenti di batteri da una parte all'altra, dalla penisola a qua, soprattutto visto che siamo un'isola, cosa che probabilmente hanno preso sotto gamba, come sempre vengono prese sotto gamba le cose. Niente. Meno male che ci hanno pensato a aiutarci molto le altre nazioni europee, hai visto quanto ci vogliono bene proprio, è veramente una cosa fantastica. Bisognerebbe fare complimenti a quelli che continuano a credere che questi dell'Europa gli siamo simpatici e ci vogliono aiutare. Manco una mascherina ci hanno mandato, dalla Cina ci hanno dovuto mandare la roba, maledetti. Sì, sì. A prenderci per il fondere, specialmente la Francia ha fatto anche la pizza al coronavirus, eccetera, eccetera. Ma io in ogni caso, Marco, non sarei potuto uscire perché mi hanno operato all'anca, capito? E quindi sono fermo, sto camminando con le stampelle, però non sono in condizione di uscire ancora. Ah, mi ricordo che mi avevi detto che dovevi subire quell'intervento, non ho capito. Beh, come stai già? Come va? Diciamo che mi sono ripreso, la gamba, i muscoli si stanno di nuovo riattivando, prima erano come se fosse una gamba di legno, duri, adesso si stanno ramollendo, sto facendo un po' di fisioterapia da solo perché me la dovevano mandare dalla SL. E sto ancora aspettando, e se aspettavo di più ritrovavo la gamba di vita. Invece adesso se la sto muovendo, la sto alzando, prima non riuscivo a fare nulla di questi movimenti, e niente, piano piano sto andando avanti. Ho provato quella cosa là, e così da te, ho provato per 2 mesi, ho visto che non mi faceva nulla, allora ho provato. Ho capito, dai, l'importante è che l'intervento sia andato bene, che tu ti senti bene, questo è piano piano riabilitarsi, era assolutamente impossibile continuare così con la cosa consumata, con quel problema lì, era da fatto, insomma, dolori bestiali, mi ricordo che stavi... Piano piano, già, vedrai che ritorno alla normalità, quell'intervento l'ha fatto anche un amico che ho incontrato da poco, contentissimo perché ovviamente ha sofferto, però adesso sta bene, cammina quasi correttamente, capito? È un'altra cosa. Sì, sì, sì. Ma si poteva stare, Marco, senza dormire la notte, tutte le notti, mi stavo prendendo l'esaurimento senza dormire, stavo diventando nervoso, mi stava cambiando il carattere. No, non esiste, le ho provate tutte e alla fine ho detto basta, quando mi hanno chiamato gli ho detto di sì subito, ma ti ascolti, domani ce l'ha sempre di venire che la ricoveriamo. Vabbè, la sera quando è pronta la valigia per ricoverarmi, da settembre ce l'ho ferma lì con tutta la roba dentro. Non faccio altro che prendere la valigia e venire. Sì, va bene, domani venga, me l'ho ricoverata giovedì, poi venerdì mi hanno fatto tutte le analisi e il martedì mi hanno operato. E grazie a Dio, cioè, ho sofferto molto i primi giorni, i dolori, a tutti ci hanno fatto anche la morfina addirittura. Però sono tornato a casa, erano alleviati i dolori, adesso si stanno alleviando sempre di più. Speriamo bene, dai, speriamo che la cosa sia riuscita bene perché sta già camminando. Hanno scritto che sono molto collaborativo nel foglio e che ho iniziato presto a camminare, eccetera. Io dal secondo giorno stavo già camminando con il giretto. Dai, bene, bene. Vedrai che fra qualche mese farà parte dei ricordi del passato. Molto bene. Ti dicevo, come sempre, bene. Cosa usiamo? Il Galaxy adesso. La modulazione mi sembrava di farti già. E sulle radio hai fatto qualcosa da raccontare? No, negativo, ma sempre le stesse sono, e non ho avuto tempo di fare niente, no? Poi aspetta un attimo che vogliono entrare, che c'è qualcuno che non controlla, va, chiede controllo. Ehi, buonasera, dai, Antonello Freccia qua. Ciao Freccia, mi hai sentito, dai. In compagnia di Doppio Room e di Marco Scorpio, ma va? Ehi, buonasera, ti ancora, dai. E niente, vero? Non accendevo questo apparato. Adesso l'ho voluto provare con l'antenna del camion. Capito? Volevo sapere se sta andando bene, anche non mi ricordo i canali di sopra e i canali di sotto. Passo in 70 e mi ha chiamato Walter. Cappa. E niente, sta andando bene, si è basso di radio, non so dove muovo, ma si è bassino. Ehi, dai, vabbè, io ho un'antenna di camion piazzata, capito, così giusto per provarlo. Io sono in zona Viale Italia, alla fine proprio. Ecco, allora, Santiago 4, la radio è di 2. Avanti Luca, buonasera. Mi penso di galla. Sono annoiato, mi senti. Ti hai comprato la terra? Sì, una volta di marinare. Io sono a casa, io ho preso una vita. Ma se sono là? Sì, mi arrabbio, dai. Vabbè, ma non è da ieri già. Diciamo come se non ti fai il caldo, è un casino. Bravo, però. Faceva l'accompagnamento e gli altri tutti insieme. Bravo, sì. Buonasera, quanto lo sta bene? Allora, volevo, mi ha fatto qualcuno in quanto al disegnare radio? Passaggio, schifo. Fa la radio schifo? Avete fatto 54, cos'è tu già? Ma dove ci siete, zona 6? Sono zona Carbonazzi, buonasera a tutti, comunque salutoni. Qui si stanno suonando le balle qualcosa, ma con la batteria va vicino a casa. Non è chiara la voce, capito? Ma non è chiara? È proprio strano. Avete sono parecchio, non lo so. Aspetta. Guarda palestra 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ho capito che sì. Però sta facendo le prove, se non si capisce nulla. Lì, adesso si è schiarito. E io sono contento, va bene. Vabbè, adesso ho accordato, l'ho appena acceso. Sono di 100 watt. con il 2009 che la parecchio non usavo. Anda bene bene, vi ringrazio tutti, dai, Bianco secondo per me, che qui ci stiamo usando le balle, uno canta a sinistra dal coso, dal palazzo, e l'altro sulla destra, con la batteria qua, ha giocato dei mancanti in questo gioco. Comunque se si può chiarificare ancora un po' è meglio, Ali, perché appena appena ancora ce l'hai in saturazione. E vabbè, devo lasciare scaldare la valvola, Il lineare è una parecchia, non uso lo speed CTE. Qui da un certo punto vuoi farlo scaldare un po'. Una volta che vai in autonomia già esce meglio. Anda bene, va. Faccio un attimino di bianco, già rientro fra poco. Antonio Freccia qua. Ciao Antonio Freccia, saluto anche a te, comunque ben ascoltato. Vabbè, ho detto molti scende, fammi sentire una canzone di Sassarese, aiuto. Volevo sentire una canzone, no, sono io con un po', mi fanno male pure i dai, i capi. Se te la fa questa bella antenna, la piace sul tempo, va bene. Sì, vabbè, già, poi è un casino, dai. Vedo la piazza e poi, boh, non lo so. Ora come ora non mi interessa. Facciamo passare questo casino che c'è in giro. E non l'avete, ragazzi. Anche un altro pianta lì è piazzata. Sì, tanto sul petto non ce n'è con una virus. Non ci fa così nato. Questo è quello. E allora, in piazza, è da qui. Se non te la sentono a piazzare, poi bisogna vedere se sono d'accordo, io non so, è casino. Magari sì, però non è detto che siamo sempre d'accordo, perché anche a me mi hanno fatto un po' di casino. Poi già parlato, non c'è problema. E allora siamo a Puglia. Avanti, di nuovo, freccia. Sì, ma che antenna c'hai tu? Ma antenna la... cioè, quella fissa c'hai? Io c'ho l'antenna sul tetto. C'ho la Minimaster. Ah, no, dai, io ho quella da mettere sulla cabina del camion, capito? Quando guidavo, ce l'avevo sul coso, l'ho levato tutto. E così stasera mi sento il flash di piazzarlo. Cappagatto. Sì, vabbè, anche io ne ho, c'ho la Turbo 2001, che antenna c'hai? C'è la Turbo. Anche io c'ho la Turbo 2001, se poi la piazza sul tetto fa come la mandola. Sì, vabbè, cazzo, io sono quattro piani sopra di me, capito? Vabbè, cosa vuol dire? La piazza sul tetto e fa scendere il filo, non è che ci fai tutto. Ma è bello che non ti fanno salire qua, capito? Come non ti fanno salire? Tu proprietari. No, perché già aveva chiesto uno per mettere la parabola, siccome è proprietario del piano di sopra, capito? Allora, se tu hai la concessione, puoi anche entrare in casa, se l'entrata era la casa di qualcuno, c'è il diritto di entrare. Vabbè, se non conoscete le leggi. No, vabbè, perché lo sto provando così, me. La concessione ce l'ho dall'86. Sì, vabbè, io ce l'ho dagli anni 70, per questo. Sì, ma sto dicendo, no? Poi hanno mollato, quando ho cambiato lavoro, ho levato tutto dal camion, era tutto in garage, mio figlio che stava cercando, neanche mi ricordavo di averlo più. Che apparecchio c'ha? Questo è un Alan 48, questo me l'aveva fatto uno a Napoli. Lumacor? No, vabbè, io l'avevo dato, non so se l'hai mai sentito, a Peppino lo schizioso. No, ragazzi, io vabbè, conosco a Gigi Vulcano come intermediario per fare gli apparati. Sì, vabbè, Gigi Vulcano è arrivato dopo che ce l'avamo già stancati noi con i barattini. Cappagatto. Vabbè, comunque, io ne ho uno suo, fatto per il... E poi c'ho anche un Harvard, che è il primo che avevo preso. Cavagava, no, per qui ti puoi fare una stazione, dai. E no, questo, l'Ala 48 è uno, dai, diciamo uno dei migliori per il camion all'epoca, poi adesso non so se ce ne sono altri. Diciamo che è molto robusto come apparato. Giappa. Allora che questo c'ha canali di sopra, canali di sotto, però non mi ricordo più chi sono i tastini, capito? Salano dove ci sono i filtri. Però non riesco, capito, bisogna aprirlo per vedere. Non lo applico, se non sei un tecnico non capisci lo stesso. E vabbè, ma le modifiche già si vedono, capito? Ripete come te l'hanno fatto, ma cosa c'ha anche la potenza modificata? Ah? Cosa c'ha anche la potenza modificata? A Farrogero. Quindi tu puoi aumentare. Positivo, però non so chi sia, infatti per quello poco fa stavo provando. Ah, ho capito. Mi sa che ci avrà, forse ci avrà boh, un 15 o 20 watt questo. Cavagava, Luca. Luca, mi ha detto che è in via d'Italia, così non mi sente lui a me. Lo sente a Luca quando mi fece? Sì, lo sento, non molto, non forte come te, però già lo sento. Ha detto che ti sente, non forte come me, però ti sente. Visto. Magari questa antenna va... Oddio, in trasmissione, già va, perché va, per quello che è, va anche troppo, però purtroppo ricezione è quella che è. Ma l'antenna comunque è 27 Come? l'antenna più lunga è 27, è meglio fa. Come pittoria, più lunga è meglio è. Cosa vuoi fare la sciuamma lì? Sempre il camera di lì. Uno. ti è piaciuta quella scena della pittoria? Ma la parte di chi sono? Sei barriato. Ah, sei barriato, eh? Sei barriato, che sono cazzo, ma tu? Là è luce. Stavo prendendo la voce per il coronavirus, dice che bisogna eliminare gli animali. Ah, state andando, vai vai, che ci ho cazzato, che hanno detto che anche i cani non portano virus, che non ne trasmettono di virus. Su Facebook. Oh, ma no, il cazzo. No, non ne trasmette. Ma è una bufola, fa una bufola, una bufola è perché è una tipa di Milano che l'ha detto, ho detto ma fai che la televisione non è chiusa, ce l'ho quando ho detto il televisore. E poi anche se fosse così io non me ne stacchi lì, né degli animali, né dell'Italia, né degli uccelli, così non fanno altro che abbandonare gli animali e poi lo portare in giro davvero se questo non trasmetto. Avanti. Hanno tutti paura del coronavirus, non dice nessuno, infatti cinghiali, dice che sono brutti a passare la passeggiata del mezzo d'Italia fino a Roma. Eppure sta sott'ora sono giretti. Eppure vicino a casa li abbiamo visti, li abbiamo filmati vicino a casa mia, stavano mangiando vicino ai cassoniti, vedi, la sua con i minorini, c'erano quattro piccolini con la madre. Ma i finti assassini, là con tutto il suo silenzio, con la gente che non circoleggia, bene niente a passeggiare. Il nome è Cristo, avanti Eugenio, avanti, buonasera. Oh, sta frusci, sì, sta frusci, ma sei a fischi, stai pescando. Luca, come lo senti Eugenio? Stavo sento da qua, da casa lo sento, arrivo a metà 7, 8, boh. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Per Eugenio, stai uscendo una bucaria, stai uscendo male di radio, abbassa il volume del microfono, cambio. Oh, macchini. Buonasera, da parte Antonello Breccia. Ciao, profeta. Ciao Gianni, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Eugenio, non so, ho problemi al microfono o il mic che è troppo alto, non lo so, comunque fischi, ineschi e radio brutta proprio. Buonasera anche da parte mia, dai. Ciao Antonello Freccia, Gianni da questa parte, zona bassa, centro storico Sassari, buonasera. Ehi, Gianni, come mi senti lì? Gianni, come mi ascolti lì? Tu hai qualche filo che si sta staccando. Come? Ma quel microfono c'è, fini, fini, fini. Basta, non ho nulla che si stacca. Controllo, magari è di saltato. Stai uscendo tutto a fischio oggi. Ho cambiato il microfono, non ti si comprende. Gianni! Avanti! Eia, ma sta vincendo a me già! No, è Eugenio del Porto Torres. Ah, positivo, là. Qua non mi senti a me? Diciamo che ti sento. Non moltissimo, ma ti sento. Vabbè, no, ma la modulazione è chiara, perché vabbè, l'antennino c'ho io. No, no, la modulazione è chiara la tua, è bassa ma chiara. Da parrogero. Tutto dall'antenna, Ma già, è un'antenna di camion, che ho messo fuori così in mezza sera. Sì, ho capito, ma forse non gli hai fatto la massa, perché con l'antenna spara forte. Se tu gli fai un piano di massa con l'antenna va benissimo. E come ti la mando, papi? Quando la metti sul tetto spara come la mando. Ehi, attaccate al ferro, mica. Capito? Non mi dà neanche stazionarie. Gappa, papi, che mi chiama? Luca, sono ascolta. Visto che qua la noia è per tutti, io sto facendo una diretta su Facebook. Niente, sto facendo vedere che la mia passione da tanti anni che ho il baracchino. E cosa fai? Perché gente che suona la chitarra, ma tu suona anche io la chitarra, mi arrangio, da non sono bravo come quelli che la suonano veramente, però purtroppo non ce l'ha fatto perché mi fanno male le dita. E niente, sto trasmettendo, sto facendo vedere la mia passione, che è il baracchino. Non so, tu vuoi salutare qualcuno di Facebook, Gianni, vai. Aspetta che mi collega. Ok, dai. Ecco qua. Buonasera a tutti. Cosa fai? Non c'è niente da fare, no? Giocare a carte, stare tutto il giorno col telefono giocando a videogiochi. Ciao Stefano, niente, là. Qua non c'è nessuno, Canale 10. No, questo è quello normale, cioè. Solito vedi, metti più 4, lo vedi? L'ho modificato. No. Questo è quello letto. Ciao Eugenio, Eugenio, sembra che sia troppo amplificato quel microfono, ogni tanto ci porta i fischi dietro. Eugenio, sta andando male, adesso non so che microfono stai usando, forse il guadagno del microfono, comunque stai uscendo male. Ma cos'è, da tavolo o palmare? Eia, ho capito. Ascolta, ma la radio ha un mic gain? Cioè, il baracchino ha un controllo del volume del microfono. Adesso ti si capisce, prima era impossibile. Oh Giovanni, mi senti? Capo, un attimo Luca, aspetta che sto cercando di risolvere una cosa con Eugenio. Adesso va meglio Eugenio. Mi ha detto che ce l'hai a metà. Mettilo, alzalo proprio un filino. Adesso va benissimo, ti si capisce. Va benissimo, prima eri veramente incomprensibile e ci avevi i fischi dietro, adesso va benissimo, avanti Luca. Riprendo io, così almeno mi sento su Facebook. Luca, ma mi senti lì? Certo, ti sento, tu mi senti? Penso di sì, tu mi senti? Sì, ma non mi sono sentito, io c'ho la diretta. Ecco, adesso sì. Adesso già sento anche a tu profeta. Vabbè, fu una volta che, come si dice, una volta che lo condivido, che termino, già si sente tutto, dai. Vabbè, io per il qua, non c'è nulla da fare già, i videogiochi non mi piacciono. Ma la passione è molto, cioè la chitarra mi piace molto, solo che non ce la faccio, non predita, devo fare il suo percorso. Avanti Eugenio, avanti. Cappa Rogero. Freccia, ci sei ancora? Eia già. Eia, guarda, qua tu mi stai arrivando il segnale Santiago 4 e Radio 4. Eia, guarda se cambia qualcosa, da così a così, cosa ha cambiato? Negativo, qua è tutto uguale, sia come radio che come segnale. Cappa Rogero. Bene merita. Gianni, ci sei ancora? Gianni, ma che 5 ce l'hai? Aspetta che vi siete parlati sopra, avanti già. Dai, ci sono, ma sono un po' in a martello. Sto rispondendo un po' nella chat e un po' a... Eia. Già, quando finisci di parlare, aspetta qualche decima di secondo, perché molte volte escono le frasi a metà. A me stai dicendo... vabbè, probabilmente ho staccato troppo fretta il microfono, dai. Va bene così. Ti capita ogni tanto che molli il mic prima di... troppo presto, capite? Quindi qualcosa la taglia. Va bene, dai, ci sono un'osservazione. Eugenio, hai messo a posto? Sempre a Sony, sì, Buludù. Oia. Va bene. Ascolta, Antonello Freccia, io come ti arrivo invece? Perfetto. Riesci a darmi un rapportino? No, perché ce li ho appena cancellati tutti e non riesco a vedermi. KK, ok, va bene lo stesso. Io sono qua zona stazione, quindi dovremmo essere molto vicini, cioè in linea d'aria siamo vicini, dai. E io sono lì dove c'è la Cona, di Via Italia, di fronte. KK, ok. Adesso Gianni c'ha le mani in pasta sia sulla 27 che su internet. Già, come sta andando? Ah, siamo parlando di noi, no? associazione, diciamo così, dai. È stata questa ragazza che volava prima e ha fatto break. E l'ho fatta entrare. Ok, ok. Va bene, va bene. Vediamo se in ruota entra qualcun altro. Comunque dai, stavo guardando adesso, forse se 5 è piena, radio e 9. Ok, grazie. Grazie, grazie, grazie. Considerando come, come la roba che stai utilizzando, soprattutto l'antenna, cioè qua, te l'ho detto, arrivi, sai, Santiago tra 4 e 5 e radio 4, dai. Sta a far Rogero. Probabilmente ancora l'antenna gli ha fatto male la mano, se no chissà l'antenna andava. Magari sistemata meglio sicuramente va alla grande. Cioè, io c'avevo, adesso non so la mia che modello sia, ma non mi nomini tu. Comunque già con la mia che è 1,70 m, piazzata sul tetto con la vecchia radio, insomma, già mi sentiva un po' tutti, dai. Poi Rogero. E beh Luca, abbandonato ci hai. No, non ho abbandonato, sono sempre qua. Sono sempre qua, l'ho messo in diretta su Facebook. È brigantino. E via, no, sono qua, dai. Ma ah, guarda, se vanno così basso già, cioè basso. E io arrivo in no, arrivi quasi 9. Sì. Avete parlato in due. No, Lu, non ho toccato assolutamente nulla, non ho modificato nulla, da quando ho messo a posto l'antenna è tutto così com'è, non è stato toccato niente. Comunque gli arrivi bene, dai, non è quello. Mi ricordavo che arrivavi più forti di segnale, poco più forti, tipo 9,5 così, 6,8 a picchi di 9, forse anche di più, dai, 9,10, forse l'antenna non è sistemata bene già. Guarda Lu, ti ripeto, da quando l'ho messa a posto non ho toccato assolutamente nulla. Tu qua mi arrivi Sant'Agotto, Radio 5. Presumo che tu sia dalla 25 adesso, giusto? Sì, sì, ho visto Santiago 7, sì, a picchi di 8. E anche tu idee compattate. Mentre stai facendo gli ultimi passaggi c'era una portante sopra, non so se era Antonello Freccia o qualcun altro. Vabbè, non c'ho antenna qua. Non è che posso fare chissà che cosa, non c'ho antenna, ma vabbè, bisogna accontentarsi, dai, bisogna accontentare allora di zia qui, avanti Gianni, non più lungo. Beh, non lo fai lasciare, io sono sempre in diretta, già. Cioè, ma che cane sta registrando, quello che sta facendo è così. Beh, secondo te sono la diretta, ma che è per forza. Affagato. Vabbè, dai, allora mandiamo un saluto a tutti gli amici di Facebook. Dalla 27 MHz doppio rumo di saluta. Allora, c'è Silvia, vabbè, faccio il cognome, che dice Gianni col tuo cognome, bei tempi. Allora, poi aspetta, al canale 20. No, aspetta, 20 anni fa circa. E poi ti saluta Stefano Brigante. Ogni casino. Silvia. Però Silvia è non quella del bar, l'altra. Ciao Marco. Ricordi, dai, non posso dire il cognome. E beh già. Ehi, dai, saluto sia a Stefano che a Silvia, dai, tutti e due. Sì, Silvia, ben tempi, anni passati. Vabbè, dai, siamo sempre qua, comunque. L'interessante è quello, raccontare. Vabbè, allora, tutti noi abbiamo, cioè io ho un computer che puoi fare tante cose, hai un telefono, tutta la generazione. Oggi devo vedere, ha ragione voi due che tocca. C'è Eugenio disperato che sta chiamando. Cioè non si sentono a 100 metri. Sì, ma non capisco che questo è questo. Oggi stai parlando sopra a cosa, a Luca. Te la piazzo io sopra nella bara. Cos'è Claudio? Prima gli avevo modulato. C'è Eugenio che sta parlando sopra di te, non ho capito con chi stai parlando, tu Silvia, Luca, ma Luca ci va a vedere. Sto parlando con Gianni doppio rumo, ti saluta questa Silvia e Stefano Principe. Dove è Stefano Principe? A Urbia. Sta guardando la diretta di Facebook, capito qua? Ce l'ha noi a Glass, sono gli arresti, non c'ho, agli arresti non ci sono mai stato, mai. E adesso la mettono gli altri. quando ti stai annoiando, come tutti noi. Buonasera a tutti comunque. Siccome c'è Eugenio che continua a parlare sopra di te perché non ti sente, non si comprendeva nulla, gli ho detto, ma con chi sta parlando Luca? Con Gianni, dai, con Gianni lo chiamava, avanti lo prima offerta. Ehi, ehi, infatti ha un mezzo aburotto, un mezzo casino. Salutoni, buonasera, buonasera Claudio, ben sentito, e anche Marcolino che ha fatto capolino. ho fatto anche la rima. Dai, lasciamo un attimino un po' più di bianco, così almeno cerchiamo di capirci meglio, dai. Avanti qua. Che questo è per la voce, parlate uno sopra l'altro. Avanti Eugenio, cos'è che stavi dicendo? Buonasera a tutti di nuovo comunque. Ora, ora io faccio fuori lì che ci è arrivata gente. Va bene. Claudio! Stanno parlando un attimo. Non vi comprendete uno con l'altro. Chi è che ha chiamato Claudio? Sì, Gianni, va bene, buon Querix, a dopo. Chi è che ha chiamato Claudio? Cazzo, non lo saluti più, Raietti, tu. Vabbè, attamelo la freccia. Ah, allora, ma è conosciuto già. Non mi confondi bene la tua motivazione. Non ci vendi in giro che tu era, torna con i tecnici. No, negativo, sono a casa. A casa? Ma è via Budapest. Sì, a me, mi ha fatto un flecce, si può sulla penna di un camion. No, non sto più guidando, capito? E niente, mi ha provato un barattino. E qua da me arrivi bene, Santiago Nova, da 10-5 Antonio. Non ci sono problemi. Tu puoi stare anche 10 anni senza parlare, quando pigi io ti conosco subito, lo usare. Poi l'ascoltato, qui arrivi bene, poi dagli altri non lo so. Avanti Luca, l'hai sentito Antonello la freccia? Claro, lo sento, certo a te a Luca Offetta già mi do più rumore, poi non sento nessun altro. Ehi, chi è? Kappa, arrivo. C'è una modulazione strana oggi, non avevo capito che eri tu. Vabbè. Ok, vediamo Marco Condor, sicuramente già ti sente, Marco. Ehi, volevo salutare il profeta che ha salutato, poi ho sentito anche qualcun altro, non ho riconosciuto chi. Natalino c'è anche, fatto capolino, io sono all'ascolto perché tanto lo sapete le mie abitudini alimentari. C'è un Freccia che arriva discretamente bene, mi pare un Santiago 8-8,5. Vieni avanti Freccia. Un attimino solo, io sto andando perché arriva la gente, ci sentiamo, non è un pochino PSO, ci sentiamo ragazzi. Devi dire, ho tutto da Facebook, dai. Ehi, già, sempre niente, vai tu. Oh, fate muovere la mascherina. Davvero, ma lo sai Claudio, che ciao Gianni, buona serata, scusa ero all'ascolto, è passato mio zio a salutare, a dire che ha fatto un giro e era tutto una cosa mai vista, proprio zona di guerra, è solo che non gli ho chiesto di salire perché lui se trova gente inizia a parlare, no, a chiacchierare da vicino, cosa ne so se me lo porta lui il virus. Meglio non ho, meglio, come hai detto tu Claudio, meno contatti si hanno meglio è. Io sono a casa, so che quando esco metto la mascherina, poi che serva o non serva è relativo. Vai Freccia. Sì, no, mi stavo chiedendo a Claudio, cos'è? Pensione grazie. Io? Sì. Sì, c'ho 2 anni. No, io non lo sai, sono con la netta urbana d'Alghero. Con la netta urbana d'Alghero? E ragando, ma quindi il cambio della netta urbana della Gesino? Ambiente Italia, già 2 anni ci sono. Che cazzo ne c'è abbiato, allora 2 anni che non ci vediamo, possibile. Sono rimasto indietro. Bel culo hai avuto, Entrare lì non è facile. Non è facile no, è stata un'occasione. Sono entrato per 3 mesi e invece sono passato definitivo. Però sei ad Alghero, non a Sassi, Alghero. Sto bene Alghero, bravo. Ah, vabbè, portate i lavori. E io non sono fermo lo stesso, Antone. Lo sto sempre facendo. Sto collaborando, poi quando ci vediamo ti dirò, dai. Che non stare a casa, solo che adesso in questi giorni sei costretto, capito? Vabbè, per rispondere a Marco e a Gianni sei in ascolto. Non si può fare neanche a casa, no. Non si deve andare e nessuno deve venire, come si dice, capito? E come fai? Devi stare distante a parlare, fare, non si può. Queste sono le regole, io ho vietato a tutti, nessuno in campagna, lui non apre nessuno, non me l'ha fatto nulla, non voglio avere problemi, capito? Anche perché io sono in giro a destra a sinistra e non voglio avere rottura di balle con nessuno. Ok, vediamo se è rientrato Gianni Rubroffetta. Gianni? Eccomi, eccomi, stavo provando, Eugenio stava provando il microfono da tavolo perché gli stava cambiando i contatti, ma sente la portante ma non esce di radio. Va bene, va bene, va bene, mi sono perso qualcosa, vabbè, comunque, niente, dai, giro il microfono a Marco, avanti. Eia, ciao Eugenio, sì, stai uscendo un po' strano, prima fischiavi, adesso è strana la modulazione, ciao Gianni. No, non sei cupo, non sei amplificato, non sei come te prima, lo sei educato, hai visto che qualcosa c'era, ma sei tu. Ma c'è un fischio quando non parla, di fondo mi pare. Audio, sì, Antonio. Tu più piccola, soltanto io, non lo so, non lo so, non lo so, qualche volta siamo sentiti in radio, in VHF e poi non l'ho sentito più, so che ogni tanto entra ma io non ci sono, anche perché non sto facendo attività amatoriale, non lo so Antonè, la verità, non lo so, siamo intravisti forse l'anno scorso. Era un bel che non lo vedo. E io l'ho visto ai candelieri, poi non l'ho più visto. Pensavo che c'era ancora in radio. Se non ci vuole l'antenna una carga bestuglia, bocca il radio può fare. Non ne ha antenne, no? Non ne ha. Non ne ha. Anzi, ce li ha ma non le piazza, anche perché ora tu hai male, salire lì, fare, capito? Ha detto sempre che qualcosa la doveva mettere. Adesso non so cosa abbia deciso. No, non l'ho più visto. Siamo sentiti, siamo l'anno scorso. Non mi ricordo neanche in che mese. Siamo a marzo, quindi quest'anno non l'ho ancora sentito. Né sentito né visto. Io non l'ho più sentito. È andato in pensione. Sì, è andato in pensione e si è ritirato. Una volta l'ho trovato, dice che sta andando sempre dal figlio su a Londra, mi pare, boh. Mi pare che è andato, sì, adesso non so se quest'estate, boh, se è vero, non lo so. Non lo so perché non ci siamo più visti, capito? Praticamente non ci stiamo frequentando, neanche perché io non sto andando da nessuna parte, ho altre cose da fare, quindi non c'è più quel giro di prima, capito? Caparocce. No, io infatti non l'ho più visto, io da quando ho cambiato lavoro non ho più visto a nessuno, capito? Ascolta, che dove fai di Alghero? No, io faccio le scariche, io sono addetto ai mezzi, poi c'ho un articolato e più le motrici, vado, li scarico quando sono piene e boh, il mio compito è quello lì. Ma dove vai, Villa Cidro? No, l'anno scorso scendevo a Villa Cidro, adesso porto a Torre se perde vita. Oppure Tronco Reale o Tergo. Ah, io a Tergo, sì. Va bene, meglio così, Antonio, vai. Quello che hai, se hai fatto un turno all'otto, a riprendere, vai, così ti accompagna alla pensione anche a te. Molto bene, quello è un lavoro serio, è un lavoro tuo, meglio così. Facciamo girare, Eugenio vieni avanti, io. Ma c'è anche Natalino hai detto, Marco, io Natalino non l'ho sentito. Aspetta Eugenio, Natalino. Oh, naturalmente mi scuso con quelli che non riesco a sentire. Gli ho detto, sicuramente Eugenio non ti sente, Luca non ti sente. Arrivi da me e da Marco, qui a Sassari, e da Natalino sicuramente. Solo che non ha ripreso. Va bene, Luca ci sei? Luca su Facebook. Va bene, Marco riprendi e fai girare, va. Marco, ma niente, Gianni riprendi. Eia. Una brutta stasera, dai. Andava bene, dai, facciamo entrare Eugenio, cazzo. Avanti Eugenio. Beh, maladrini. Vabbè, che va già? Se lo vuoi mi conosci, ciao, grazie, ciao Gianni. Mi sta facendo Antonello, vero Antonello la freccia? Ah giusto, voi vuoi essere 30 anni senza entrare, però quando entrate io vi riconosco la voce, tu lì. Siamo i mitici degli anni 70, quindi è chiaro che le modulazioni si riconoscono al volo, perlomeno io c'ho molta, molta attenzione sulle modulazioni, poi la tua non è mai cambiata, è sempre la stessa, quindi. Ciao a tutti, buonasera, ben ascoltato. C'è Antonio Loffrigia, Eugenio, da Porto Torres, Gianni Lubrofetta, gli altri sono tutti ritirati, riprende e fai girare. Ok, sono in circolare, è una bella ruota comunque. Vediamo se arriva Porto Torres, sì, avanti. Ciao Eugenio, e anche tu arrivi più o più, va bene, la posizione mia non è che sono a Sassari, sono in campagna, quindi Santiago 3 mi arrivi, ma la radio è abbastanza comprensibile, Radio 3 è stato dato, sono qua. Avanti Gianni. Ciao Tonino, buonasera, ben sentito. E allora, in questi giorni la 27 si sta ripopolando piano piano, dai, almeno qualcosa di positivo e di allegro, dai. Bene, bene, ben sentito. Comunque, vediamo se Marco è rientrato. Marco, ci sei? Ecco Marco, sono in Magnetti. Sempre che tu la mania. Ho la bocca impegnata. Marco, ma come la bocca impegnata, l'ha sbagliato? Dimmi oggi. E dipende, da alcuni baracchini al contrario. Cazzo, clam, mi hai bucato la parola alla bocca. Beh, i colori sono sempre quelli. Secondo i baracchini oggi è sempre quello, secondo altri baracchini è al contrario, quindi devi invertire. E mi pare ci sia anche il giallo da invertire. Adesso i numeri non me li ricordo più di quella 4, però mi pare c'era anche il giallo in alcuni baracchini da invertire. Vabbè, ma provali, ti metti lo spinotto, te lo punti e lo provi. E se no lo fai con lo Dexter, si conosce lo Dexter. Antonella, hai sentito a Tonino Kawasaki? Poco, ma poco. Ma l'antenna è nella buccia, è un buongiorno. Via. Ah, e qual è quella che avevi, la PDC 800? No, la Sigma 2000. Ah, c'è una radio favolosa. Peccato che il segnale è più basso del solito. Ma lì bisogna fare qualcosa, Bisogna c'è un ballo qui in antenna, cercare di mettere qualcosa di più performante. Positivo, perché qua sono chiuso nel palazzo, un palazzo di Ocampo, un palazzo dietro, un palazzo al fianco, dove però sono stretto a un fusso io. Ma c'era buon sopra anch'io, scherreggia forte. No, se la porto su al quinto piano si immagineggia, perché il baracchino già va. No, ma il baracchino va, perché va, già si vede, già si sente, ma la posizione lì è buona, la bulla perché è ottima. Per Sassari e fuori Sassari, molto, molto aperto, capito Antonio? Va bene, va bene. Cosa stavo dicendo? E oggi ti porti appresso un rientro, qualcosa del genere, un fischio. Abbassalo appena appena il microfono. Eia, e con te ce l'ho, abbassa appena appena il microfono. Ah, no, adesso non ne hai il fischio, poco fa c'avevi un fischio, no già. Eia, glielo ho detto anch'io poco fa. Sicuramente forse aveva il mic gain della radio troppo alto. Ma anche adesso ce l'hai? Va e viene. Non lo so, evidentemente l'hai toccato, non lo so. Bene, bene ragazzi, dai, io me devo allontanare perché mi preparo e uscire col cane. Quindi, ciao Antonio, un abbraccio. Non gli ha dato un colpo di telefono, ma sta bene in varia. Solo che tutto chiuso, manca a prendere un caffè. Io odiavo il caffè a casa e tocca pigliarmelo a casa, è tutto già rato, vaffanculo. Ciao Marco, ciao Tony, ciao anche a te Gianni, a Eugenio, a tutti quelli che sono ascolto, vi lascio che devo uscire a portare il cagnone. Vai Tony, fai girare tu. Ok, ciao Cla, buona passeggiata col cane, dammi bene, alla prossima, avanti ciao. Oh, scusate. No, così ne approfitto, poi rilancio a Gianni. Una curiosità anche tu Claudio, ma per andare a 100 metri a buttare la spazzatura devo fare domanda in carta bollata o posso andare così tranquillo? Perché stanno esagerando, mi sa. Si stavano vantando 4.000 denunciati, è tutto per pecuniami, tutto per multe, per fare multe. Adesso ne ho approfittato anche con questa storia allo Stato, è una cosa schifosa, guarda. Vai Gianni. Guarda. Aspetta, c'è qualcuno che c'ha il coronavirus. Marco, allora, proprio stamattina mi è successa una cosa che non mi era mai successa, perché tutta la mattina stavo uscendo. Stamattina sono uscito in macchina, in via Umana c'era una pattuglia dei vigili, mi ha fermato, mi ha messo la paletta, mi ha detto dove stavo andando, ho detto dove stavo andando. me è una motivazione valida, è la pura verità, perché lì la panetteria di Oggiano fa anche caffetteria, qui sto andando a prendere il caffè, non ho nessuna balla. È un rischiato grosso, fortunatamente hanno capito, non lo so, che cosa, però mi hanno dato il modulo e ce l'ho sempre appresso, devo avere l'altra certificazione appresso, quindi praticamente ho fatto dal mio, da via Ramalfa, ho fatto via Carbonati, via Forlanini, via Umana, capito? E via Umana mi hanno fermato. Quindi per capirci, mi sembra che la situazione, non bisogna prendere la moto alla leggera, perché sono 260 euro, mi stava dicendo questo maresciallo dei vigili urbani, tutto qua. Non ai suoi piedi. Vi saluto, vi abbraccio, vi stimo e vi stiro. A tutti, ciao. Ciao Claudio, alla prossima, dai, ci sarà tempo migliore per prenderci un caffè. Comunque anch'io vi sto viaggiando con l'autocertificazione, dai. Ciao Antonio, ci sentiamo, perché bugie veloce, un girica. Pronto, che ce ne sono due che non senti. Hai zitto che ando di giammani. Ciao Antonio, ci sentiamo, dai, alle prossime. Avremo modo di rivederci, dai. Ciao a tutti, buona serata. Vai Eugenio, fai girare. Eugenio, ciao Claudio, sì, stai fischiando ancora. Certe volte scompare, certe volte riappare, più o meno forte. Alle volte è forte quanto la modulazione, alle volte è di fondo. Aspetta che c'era qualcuno che chiamava. Chi è che ha chiamato Eugenio o chi? E Antonello Freccia a salutarvi. Ehi, ciao Antonè, dai, sentiamo, buone cose, buon proseguimento di serata, se non ti trattieni, dai, sentiamo, ho perso anche la ruota adesso, non mi ricordo che, Gianni, fai girare tu. Ehi, in mezzo alla confusione, non ho capito se Antonello stava salutando o meno, comunque, dai, salutami a Claudio, non so se rientra. Più tardi o niente, dai, comunque ben sentito, e niente, boh, Antonio, non ho capito se stavi salutando o se stavi, insomma, se ti hanno lanciato il microfono regolarmente. No, dai, mi sto un attimo spostando, magari riprendo un po' più tardi, per il momento vi saluto, a dopo, ciao ciao e buona serata. Ok Antonio, ricambio, dai, buona serata anche a te. Dai, ci aggiorniamo. Niente, sì, anche io confermo, oggi, come ti ho detto prima, c'è questo fischio fastidioso che in alcuni momenti sovrasta la modulazione. Insomma, quello che dovevo dirti te l'ho detto anche poco fa. Ok, avanti Tonino. Grazie per il microfono perché mi devo spostare. Perché c'è una bella roba buona nel forno, devo girare, già mi si brucia la maglia nuda e carotti. Dai, riprendete il Quad X per me, se vedi già. Eia, ok, buona carica. Dai, al limite ci si aggiorna dopo o alla prossima, dai. Ok, avanti oggi. L'hanno fatto giusto. Però poi vanno a partire, lì in Milano vanno a partire, partono a buon cuginino. E vabbè, qualche problema, devo lasciare il microfono. Ciao Luigi comunque, ciao Gianni, tu brevetta, e ciao Marco, e ciao ragazzi amici che sono andati via, che non ho fatto in tempo a salutarli. Avanti Marco. Ciao Giulio, modulazione sempre appena entri è un po' pompata, un po' troppo, forse come sale di potenza anche, da più picchi. Se si può ritoccare una cosa infinitesimale, no, come ho chiesto prima, poi non sono 100 metri, sono 50 metri dal cassonetto, se devo fare domani carta bollata, mi sembra il colmo che debba compilare il modulo a buttare la mondezza, tanto lo vedono dai documenti se c'è un controllo che abito lì, a 50 metri. Anche lì ne stanno approfittando molte denunce, che poi le denunce si uno giustamente per non avere casini preferisce convertirla in pecunia, e mi sa di manovrina anche quella per raschiare il fondo. Boh, vabbè, lasciamo perdere, dai, se non mi mi tocca scantonare contro lo Stato, come sempre. Gianni, dammi a mano forte, tu sì che mi capisci. Eia, ciao Giulio, buonasera, ben sentito, ben entrato. Anche io ti faccio notare che la modulazione è troppo alta, quindi se riesci a abbassare un filino il microfono, sicuramente le cose vanno meglio. Allora, per Eugenio, allora poco fa abbiamo fatto una prova, adesso sicuramente hai il mic gain al 100%, poco fa hai fatto una prova e l'hai messa al 50% e io ti capivo benissimo. Invece di metterlo al 100%, prova a metterlo a 80-70%, vediamo un po' se cambia, ok? Avanti. Continua a fischiare uguale, vabbè. Niente, continua a fischiare uguale, boh, non lo so cosa sia successo. Boh, avanti giù. Ok, adesso l'ho abbassato, adesso dovrebbe andare bene, confermi? Sì, dai, va meglio di prima era tutto bu e avevo difficoltà veramente a capirti, e niente, perlomeno qua da questa parte. Per Marco, guarda, io la Mondezza la sto buttando regolarmente qua, non ci sono problemi, quindi l'importante è non farsi assalire troppo da questa psicosi, cioè sono cose naturali, normali, che la gente comune fa, cioè quella di buttare la monnezza, cioè quindi non ti mettere troppe paranoie, ok? Niente, dai, avanti giù. Ok, vediamo un po', adesso io ho regolato qua, qui adesso dovrebbe andare bene, benissimo. Non bene, benissimo dovrebbe andare adesso, confermi? Confermo, adesso è ottimo, adesso va bene, dai, vediamo se Eugenio è risolto. Comunque non credo, sì Giulio, benissimo, non credo che sia un rientro di RF, perché Eugenio non ne ha mai rientro di RF, cioè non ha quel problema, adesso ha qualche filino che sfiora, tocca, non tocca. Boh, probabile, comunque poco fa abbiamo fatto delle prove, gli ho detto di abbassare il mic gain, di metterlo al 50%, chiaramente la modulazione era più bassa, però il fischio non c'era. E niente, quindi abbiamo fatto questo esperimento, poi ha provato un microfono da tavolo che e chiaramente usciva fuori la portante, però con un fischio, però non usciva di radio, quindi sicuramente ci sono da controllare le connessioni. Avanti Marco. Fischia, ma lo vuoi sentire? Che te lo aspetta che piglio lo smartphone, te lo faccio sentire. Sempre un po', premi la portante muta più che altro. No, c'è sempre, boh. Ma hai toccato qualcosa o hai tirato il microfono per staccarlo magari dal cavetto, no? Cavolo, però qualcosa, o si stanno sfiorando due filettini, qualcosa è successo, perché il fischio c'è, è evidente anche. Ok, vai Giulio, dai. Guarda, c'è qualche avvarario accesa vicino, oppure se hai le cuffie, qualche radio accesa, qualche altro parlante, insomma, può essere anche questo. Se no è sicuramente questo il microfono. Vabbè, dai, già lo trovi il guaio. E così è. Allora, voi soci siete, compreso me. Io sono appena arrivato, ero al computer, non sapevo cosa fare tutta la serata, ma se va, vediamo se c'è qualcuno tra quelli. Ed ecco che vi ho trovato, pur Bacchioni, avanti Gianni. Ehi, no, c'era una bella ruota, sino insomma, non troppo tempo fa, dai, insomma, c'era un po' di movimento, poi... Gianni si è spostato, Luca si è spostato, niente, c'era anche Claudio che è andato a portare il cane, Antonello Freccia, Tenio Kawasaki, e niente, insomma, poi un po' di gente si è spostata e siamo rimasti noi. Ho capito, vediamo se c'è ancora Tonino Kawasaki, che sono 30 anni e oltre senza sentirlo. Tonino, ci sei? anche lui questi greca mi pare. No, c'aveva roba nel forno che stava cuocendo o roba del genere. Ma provaci pure che torni. Io purtroppo ne devo spostare io adesso. Dai, devo fare le cose, se no poi si fa tardi e non è più voglia. Stasera c'è un film interessante. E vabbè. Quindi vi saluto da adesso. Ciao Gianni, Eugenio, Giulio, ovviamente gli ascoltoni, dai. Ci sentiamo nel prossimo, ok? Oggi non ho meno voglia anche di stare in radio. Ero più sonnolento oggi, proprio non. Tanto qua cosa devi fare? Più che girarsi i pollici in una direzione, poi nell'altra. Vabbè, vai Giulio, dai. Buona serata, ci sentiamo, vai Giulio. Sì, ciao Marco, allora anch'io chiudo, va. Chiudo anch'io e non se ne parla più. Me ne scendo giù per andare alla televisione, sono per sposto, qualche cosa già troppo. Ci sentiamo, ciao, ciao a tutti, ciao Marco, Gianni e Eugenio e tutti quelli che ascoltano. Sempre che ci sia qualcuno ascoltando. Ci sentiamo, ciao, ciao, ci sentiamo già. Ehi. Dai, salutoni Marco, ci sentiamo quanto prima, salutoni anche a te Giulio, dai, ci sentiamo quanto prima uguale, e niente dai, faccio un'ultima chiamata, vediamo un po' se c'è Eugenio, comunque dai, buona serata a voi, vediamo se c'è ancora Eugenio, avanti Eugenio, no, Eugenio per il momento è sparito, comunque, saluti a tutti e niente dai, alle prossime. Ciao già. Eugenio, no, sai perché sta fischiando, adesso va, ha preso il virus. Non so, io ho detto, abbiamo fatto delle prove, ha abbassato un po' i micheni, si sentiva basso, però senza fischio, poi da quel momento in poi ha iniziato ad amplificarsi la cosa. Stavo pensando, ma lui non è che ha qualche alimentatore troppo vicino al baracchino, magari quelli switching che può creare rumore, perché mi pare che in rari casi gliel'aveva fatto, mi sembra di ricordare che certe volte quando aveva tipo un alimentatore troppo vicino tendeva a fischiare appena, però quello dico, quello nego, magari qualcun altro e sto sbagliando io. Tutto può essere Marco, cosa vuoi che ti dica? Tutto può essere. Adesso non so se il microfono che sta usando sia amplificato, sia batteria o meno, non so. Quindi anche io non ho risposte, non ho conferme da dare, dai. Sì, sicuramente starà controllando i poli col tester, vediamo. Vabbè, io purtroppo non mi posso trattenere, dai, 7.25 è passato, mi sbrigo queste cose così poi mi posso spaparanzare, ok, dai, di nuovo già, ci sentiamo, ciao Eugenio se ci sei ancora, e a tutti, ciao. Aspetta Marco, un'ultima cortesia, allora siccome Luca a casa della 25 poco fa mi ha detto che stasera mi sentiva con un segnale un po' più basso del solito, da te invece come arrivo? Mi confermi qualche variazione oppure è tutto stabile? A me sembra tutto stabile, sì, tendente al 9.25, sì, sul più del più 30, proprio il simbolo più, no, tu sei praticamente quasi sopra la verticale del più, no, della crocetta. Io sono sicuro che se tolgo, scusa che se io tolgo lo spezzone, il filtro e metto l'antenna diretta, tu arrivi 9.25 pieno. Se vuoi faccio la prova all'istante, così mi tolgo la. E vediamo se sale anche da me il segnale. Oh, vabbè, tranquillo, no, non ti prendere tutti questi sbattimenti, no, perché insomma me l'ha fatto notare Luca, poi se, per carità senza. Senza volergli male, però sicuramente magari con l'antenna che ha, insomma, non, magari proprio perché non c'ha una quel tipo di antenna lì, magari in questo momento mi riceve così, quindi magari è dovuto solo alla sua ricezione. Dai, a futtidini, non ci sono problemi, Marco, era giusto per avere un riferimento. a Futtidini. Ok, grazie comunque. Ehi, no Luca, guarda, l'ha detto anche a me l'altra volta, ero più basso, ho detto va, ho controllato tutto, non, qua era tutto a posto. E anche lui era più basso, però sicuramente con quell'antennino magari non so se oscilli, se c'ha qualche posizione, come dire, non è costante nella trasmissione lui, anche ricezione ogni tanto varia, quindi non dipende da te, qua è tutto regolato. Ok, vabbè certo. Andrà bene, dai Marco, rinnovo i saluti e niente, dai, vai a buttare la molletta, tranquillo, e ci aggiorniamo quanto prima, ok? Buona serata. Ehi, no, perché sono sicuro che qualcuno si è ritrovato lo stronzo emerito, eh. Certi, no, io già sono la Desdico, no? Alle, già lo sai, no? Uniformi, chiamiamole. Un po'... Se trovi, magari ritiene che il motivo non sia valido, tanto siamo in mano, cioè le leggi sono molto relative, alla fine sono a discrezione di appuntato cacacce, come si dice. Ah boh, te l'ho detto prima, non ti mettere, non sfasciarti la testa prima, non bendarti la testa prima di sfasciartela, vai tranquillo, butta la mezza. Che è una necessità, quindi cioè, non è che devi accumulare rifiuti e fare una discarica a casa tua, quindi vuol dire. Comunque vai, tranquillo, ok? No, io per un accesso al mio di zelo ho chiesto e per esempio anche Claudio ha visto, ha girato l'angolo, ha trovato quelli, meno male che anzi ha trovato persone, hanno visto che lui abitava lì, mi ha dato il modulo. Eccetera, quello vale se vai lontano, cioè da casa, che ne so, farmacia, spesa, ma già che ti devi fare compilare questo modulo che vale o non vale, perché io potrei essere già portatore, firmare tutti i moduli che vuoi e magari contagiare mezza Sassari, ma vabbè, così è la vita. Ciao già, buona serata, dai, ci sentiamo anche domani, non lo so, quando tanto sempre qua sono io come ero a casa prima sono a casa adesso, ero già ai domiciliari da tempo che ci sentiamo, ciao caro, buona serata, vai, bisogna prendere un po' le cose con filosofia e non farsi insomma annebbiare la vista e il cervello da questa situazione, dai, comunque rinnovo i saluti e a presto, dai, ciao.